E gli uccelli volavano molto tranquilli e la carestia brillava lontana, soltanto ironica. E l'una era una donna, l'altro non era un uomo. E l'una bramava e piangeva, l'uno era uomo. E l'una bramava e piangeva, l'uno era uomo e l'altra era donna, le molli verdi foglie.